Ma non esiste una vera Africa, come dire, un ricercatore norvegese a chiedere qual è la vera Italia, no? Cioè, esistono tante realtà diverse, che hanno visioni diverse, classi sociali diverse, ceti diversi. Quindi non è che esiste una vera Africa. Le lenti in cui allora veniva guardata l'Africa erano quelle ideologiche all'interno della guerra fredda, di rivoluzioni africane che erano già di per sé socialiste, ma erano gli stessi africani che volevano portare avanti questa visione. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano. Il centro Amílcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amílcar Cabral. Facciamo un passo indietro rispetto a dove eravamo arrivati. Abbiamo parlato di solidarietà, internazionalismo, sforzi per arrivare ad un benessere universale, non solo materiale, ma anche ideale. Cosa rimane oggi di tutto questo se guardiamo all'Africa o agli equilibri geopolitici? Possiamo dire che stiamo vivendo in un mondo senza colonialismo? Leggendo i giornali, informandoci e scrutando quel che succede nel mondo, in svariate forme, l'eredità coloniale si ripresenta ancora oggi, che sia di potere economico, razzismo diffuso oppure tensioni politiche come quelle in Sudafrica, quando dall'inizio di questo 2025 il potere degli imprenditori bianchi e degli Afrikaners viene sostenuto da Donald Trump ed Elon Musk. È forse utile ricordare che Elon Musk è di origini sudafricane e rivolge al paese simbolo della lotta dell'apartheid accuse di segregazione bianca e di violenze contro la minoranza ex coloniale. Il Sudafrica è dal 94 un paese non allineato ed è oggi oggetto di interesse per il piano di Musk di federare le destre globali. Parla di leggi apertamente razziste, ribaltando le parole del capo della sinistra d'opposizione, Julius Malema. There is no white genocide here. It's an absolute rubbish to say there is white genocide. There is black genocide in the USA. Ma la storia dei colonialismi è anche la storia di resistenze armate, politiche o culturali che hanno mirato al traguardo dell'indipendenza. E anche nel presente la necessità di ripensare il mondo da un approccio decoloniale è più che mai viva. In questa puntata parliamo di cos'è successo dopo che i paesi colonizzati ottengono l'indipendenza, concentrandoci su quelli dell'ex impero portoghese. Cosa succede e come si sviluppa la loro politica e cosa vuol dire parlare di decoloniale oggi? Fin dall'alba della storiografia moderna, nata in quell'Ottocento che non a caso è stato anche l'epoca d'oro dell'imperialismo europeo, la storia dei popoli che abitavano i continenti colonizzati era studiata e raccontata come una storia aliena. Storia esotica, storia di terre soffocate dalla giungla o seccate dal deserto, terre afflitte da malattie, storia selvaggia, storia di barbari, storia di popoli senza storia, intrinsecamente inferiori ai colonizzatori europei. Con la decolonizzazione, gli storici occidentali cambiano il proprio sguardo sul mondo. Oppure no? In realtà, specialmente quando si tratta di spiegare le difficili condizioni dei paesi decolonizzati, troppo spesso le storie scritte in Occidente esprimono ancora uno sguardo coloniale. Le colpe che hanno causato un presente terribile sono tutte delle popolazioni locali. Loro la colpa delle guerre civili, della corruzione, degli estremismi religiosi e della povertà diffusa. Occorre superare questo esotismo di ritorno. Questa esigenza è riassunta nella parola decolonialità, cioè la messa in discussione di quell'eurocentrismo che prima ha incoraggiato l'imperialismo e poi ne ha pervaso il resoconto storico. Liberarsi di tale prospettiva, che guarda gli altri continenti dall'alto in basso, è la premessa necessaria per un vero dialogo interculturale. La decolonizzazione fu un fenomeno rapido, persino più rapido della colonizzazione avvenuta nella seconda metà dell'Ottocento. Negli anni Sessanta, a 20 anni di distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'intera Africa ha quasi completato la sua decolonizzazione. Il 1960 viene proprio chiamato l'anno delle indipendenze africane, perché in questo anno venivano proclamati 18 nuovi paesi. Tutto questo avveniva a partire da tre cause principali. Le potenze coloniali, come Francia e Gran Bretagna, erano impegnate nella propria ricostruzione dopo il conflitto mondiale. Gli Stati Uniti facevano enormi pressioni per inserirsi tra le forze indipendentiste per arginare l'influenza sovietica. Anticolonialismo e panafricanismo coagulavano le forze indipendentiste africane e le loro élite. Ma Lisbona decide di concedere l'indipendenza solo dopo la rivoluzione dei garofani che rovesciò il regime salazarista nel 1975. Ottenuta l'indipendenza, le nuove ex colonie portoghesi si trovano di fronte al progetto di diventare nazioni in un contesto politico ed economico molto diverso da quello che aveva visto la liberazione di altre ex colonie africane 15 anni prima. Questo ce lo spiega Corrado Tornimbeni, docente di storia e istituzioni dell'Africa dell'Università di Bologna. Quindi queste arrivano all'indipendenza tramite una lotta armata che già ha i suoi problemi. Poi diventano indipendenti con movimenti di liberazione che ritengono anche giustamente di essere movimenti politici che già rappresentano tutta la nazione. Una nazione che non esiste ancora praticamente, una nazione da costruire. Cioè, uno studioso mozambicano ha detto una nazione come comunità di destino, che viene da un retroterra in comune solo lo sfruttamento coloniale, ma tante divisioni, ma adesso che si affaccia all'indipendenza con grandi progetti, grandi idee, una comunità di destino da costruire e una grande ambizione anche di inaugurare una stagione di veloce sviluppo basato sulle politiche di modernizzazione. Paesi arretrati, perché erano praticamente delle basi di sfruttamento di risorse prime, ma anche di umano, di forza lavoro, diventano indipendenti, quindi con l'idea, duplice idea, consolidare delle nazioni all'interno di paesi che erano state colonie, e incamminarsi verso un rapido sviluppo per tutti i neocittadini basato su progetti di modernizzazione. E sono proprio queste due grandi ambizioni che sono quelle che sono fallite in Africa e in questo caso in questi paesi, le colonie portoghesi. Le colonie o ex colonie portoghesi scontano in particolare un grossissimo problema, che diventano indipendenti a metà degli anni 70, che sono già gli anni della crisi. È la crisi economica mondiale, quella inaugurata con le guerre in Medio Oriente, che poi sono diventate crisi petrolifere, crisi finanziarie, crisi economiche, di cui hanno sofferto in primo luogo chi? I paesi produttori di materie prime del sud del mondo, perché i prezzi delle materie prime sono caduti, invece sono schizzati in alto i prezzi dei manufatti e quindi è crollato tutta quella economia con cui i paesi africani avevano avviato questi grandi progetti di sviluppo e modernizzazione. Allora, mentre per gli altri paesi africani erano già 10-15 anni che erano indipendenti e che quindi avevano avviato le loro politiche, il tentativo di industrializzazione, anche di pacificazione interna tra le varie divisioni, Angola, Mozambico, Guinea-Bissau, Capo Verde, eccetera. E Sao Tomé e Principe diventano indipendenti proprio in quel momento. Quindi con un modello di stato di sviluppo, come noi diciamo stato sviluppista, che era già in crisi in tutto il resto dell'Africa. E in più in mezzo al conflitto caldo della guerra fredda, perché Angola e Mozambico, in particolare appunto in Africa australe, diventano attori di una guerra fredda combattuta. In quel caso è contro il Sudafrica, che è ancora il Sudafrica dell'apartheid. E lì si combatte molto anche. L'apartheid di lì a breve, nel giro di pochi anni, con la presidenza di Reagan negli Stati Uniti, diventa il bastione bianco della democrazia occidentale. Angola e Mozambico e gli altri paesi che stanno attorno al Sudafrica diventano, come dire, vengono visti come l'avanguardia della minaccia comunista che si espande in Africa e che in effetti sono tutti paesi guidati da leader che non considerano la propria indipendenza come completa finché non lo saranno tutti, quindi anche i sudafricani. Eppure gli eredi di Cabral si troveranno di fronte a delle contraddizioni forti. Ce ne parla Vincenzo Russo, professore associato di letteratura portoghese e brasiliana presso l'Università degli Studi di Milano. La narrativa nazionale è la nazione, che era anche un po' la gabbia in cui sono finiti per ricadere gli eredi di Cabral. È chiaro che Cabral e gli altri indipendentisti combattono contro il colonialismo portoghese, ovviamente in nome di un ideale socialista, ma combattono per costruire una nazione. Quindi con una, come dire, con una contraddizione potente che non si riesce a sciogliere e che si portano ovviamente negli stati postcoloniali in maniera molto molto accentuata, dentro poi un contesto appunto però di guerra fredda. Oggi internazionalismo deve funzionare come quel dispositivo che ci aiuta a ripensare la storia fuori dalle frontiere. Nelle scorse puntate abbiamo parlato della solidarietà da un punto di vista europeo, ma qui ribaltiamo lo sguardo. Qual è il punto di vista dei leader e dei cittadini africani? Ce lo spiega sempre Corrado Tornimbeni. In tante cose che si dicono molto belle, molto importanti appunto su questo legame tra la solidarietà internazionale, quella italiana, quella europea, americana, eccetera, e questi leader africani, si sottolinea spesso appunto quali erano le motivazioni e l'impatto, le influenze di queste reti di solidarietà europee e occidentali, ma troppo spesso ci si dimentica del profilo invece degli africani, quella che noi in università chiamiamo la agency africana. E invece era il dato più importante, perché erano, ripeto, leadership pragmatiche che esistono ancora oggi. Questo è importante, perché la classe politica in molti di questi paesi che è al potere oggi è ancora quella, cioè che viene da quella storia di liberazione, e sono leadership estremamente pragmatiche, che hanno un'altissima capacità, generalmente, ovviamente stiamo facendo un po' un quadro molto generale, di comprendere quelle che sono le opportunità, oggi diremmo globali, per portare avanti le proprie priorità nazionali e locali. Dagli anni 80 questi leader marxisti e leninisti hanno cominciato ad abbracciare il mercato, abbracciare le riforme, e poi si arriva all'apertura democratica e alla storia che riguarda il periodo più recente e la situazione più attuale. Un doppio programma sogno, vogliamo, che è pian piano fallito, che è quello della creazione di nazioni e dello sviluppo, con la doppia responsabilità locale e internazionale. Che oggi, ma proprio in questi giorni, è il caso ovviamente più scottante e doloroso, quello del Mozambico, dove c'è chiamiamola quasi una rivoluzione sociale in questo momento, è proprio la forte contestazione da parte dei giovani di questa classe politica, che è percepita ormai come completamente distante dalle esigenze di ceti sociali che sono rimasti completamente marginati da quelle che sono il mercato, le opportunità, gli investimenti. Per pensare che le nazioni africane sono, rispetto alle nostre, molto diverse dalle nostre, perché sono estremamente giovani, cioè un'età media bassissima, quindi la maggior parte della popolazione non ha benché minimo ricordo del colonialismo, della liberazione, eccetera. Per loro è una cosa distante, le loro preoccupazioni sono completamente diverse, sono quelle appunto di trovare un riscontro di quelle che sono le loro legittime aspettative, cioè di avere accesso a quei canali, quelle opportunità degli investimenti internazionali da cui adesso sono completamente esclusi. E quindi in questo momento c'è una grande contestazione di questi politici, di questi partiti e anche di quella narrazione che si è fatta. Questo a livello proprio sociale, poi anche a livello di studi, con l'apertura di vari archivi, insomma, sono emerse tante storie un po' diverse. Ad esempio, tutti questi partiti unici che hanno per anni e anni e anni incarnato l'idea, ed è stato loro permesso di incarnare l'idea di rappresentare una nazione, chiunque la contestasse era nemico del popolo, beh, adesso emerge che anche durante la guerra di liberazione c'erano altre idee, c'erano altri leader, magari con le loro criticità, per carità, non è così. Però ecco, non era così consensuale questa liberazione. Certo, tutti volevano la liberazione dal giogo coloniale, ma con prospettive e idee diverse, e ci sono stati dei conflitti interni molto dolorosi che per tanti anni sono stati accantonati e che oggi stanno emergendo, questo sicuramente. Di guardare alle altre culture senza uno sguardo coloniale e colonizzante li troviamo anche nell'università. Anna Maria Gentili, la prima professoressa ad avere una cattedra di storia dell'Africa, ci spiega le difficoltà nell'iniziare a studiare i popoli africani non più sempre solo con l'etichetta infantilizzante di un continente senza storia. Devi sempre rappresentare la situazione per quello che è. Parlo degli intellettuali, parlo di Cabral, di studiare loro la propria storia, di essere la questione culturale, ovvero sia di capire che le culture sono la somma di culture diverse che si devono armonizzare fra di loro. No, all'università prima di me sull'Africa non c'era nessuno, c'erano i glottologi, persone coltissime, eccetera, eccetera, ma io sono stata la prima, per caso quasi, a cui hanno dato fiducia uno dei professoroni di scienze politiche per farmi insegnare un corso. Io mi ero laureata anche negli Stati Uniti ed ero immersa in tutta questa discussione, Vietnam e così via. Ascoltavamo di notte Fidel Castro alla radio, parlava per 6 ore di seguito. E venuta qui, diciamo, ho seguito quello che avevo imparato. Sono andata subito sul terreno. Cioè, c'era un mio professore che aveva detto: a me non piace ripetere libri scritti dagli altri. E qui invece, e poi si parlava solo del colonialismo italiano, usando i concetti, i principi che venivano dall'epoca coloniale. Quindi è stato il primo gruppo di noi che ci occupavamo dell'Africa, io a Bologna, Triulzi, a Napoli, e altri insomma in giro, che ha cominciato a lavorare su questo. Gli studenti del 68 venivano da me e dicevano: a me non interessa niente dell'Africa, gli studenti progressisti, no, in Africa sono selvaggi primitivi. Io gli davo di bacchetta e dice: io voglio studiare il Vietnam, l'India. Dico: allora facciamo così, se voi volete studiare il Vietnam, non ditelo lì perché sennò ci denuncia, il Vietnam e l'India, andate ai corsi del professor Soffri. Poi facevamo delle conferenze fra di noi con altri, invitando. Abbiamo cominciato a invitare stranieri, cioè dall'Africa allora era difficile, ma dopo l'abbiamo fatto, francesi, inglesi, tedeschi e così via, che facevano ricerche molto specifiche. Però l'altro problema dell'Accademia Italiana è che chi faceva ricerca molto specifica magari era bravissimo, però non sapeva contestualizzarla. Tu non puoi insegnare le storie di mondi così diversi dal nostro, così complessi, con tradizioni culturali, non avendo un quadro in cui collocare questo lavoro, no? La mia coinquilina americana era sconvolta a causa mia. Mi ha chiesto dove avessi imparato a parlare inglese così bene ed è rimasta frastornata quando gli ho detto che la Nigeria, si dava il caso, avesse l'inglese come lingua ufficiale. Mi ha chiesto se poteva ascoltare quella che chiamava la mia musica tribale e di conseguenza è rimasta assai delusa quando le ho mostrato la mia cassetta di Mariah Carey. Pensava che non sapessi usare il fornello. Ciò che mi ha colpito di più è stato questo, che le facessi già pena ancor prima di vedermi. Il suo atteggiamento iniziale verso di me, in quanto africana, era una specie di pietà paternalistica e ben intenzionata. La mia coinquilina aveva un'unica storia dell'Africa, un'unica storia fatta di catastrofi. E in quest'unica storia non vi era alcuna possibilità che gli africani fossero in alcun modo simili a lei. Nessuna possibilità per sentimenti più complessi della pietà. Nessuna possibilità di un rapporto alla pari tra esseri umani. Devo dire che prima di andare negli Stati Uniti non mi consideravo africana consapevolmente. Ma negli Stati Uniti, ogni volta che si parlava di Africa, la gente si rivolgeva a me. Non importa che non sapessi nulla di posti come la Namibia. Tuttavia, ho iniziato ad abbracciare questa nuova identità e ora, sotto vari aspetti, penso a me stessa come un'africana, anche se mi irrito ancora quando ci si riferisce all'Africa come un unico paese. Come dice la stessa Gentili nell'audio che sentiremo ora, l'Africa è, appunto, un continente immenso e la ricerca sul campo è fondamentale per studiarne la storia. L'Africa è un continente immenso, molto diversificato, da nord a sud, da est a ovest. Bisognava darsi da fare e c'era pochissima letteratura. Adesso ce n'è un mucchio, c'è bisogno di ricerca. Poi sono andata in Mozambico, che è stata l'esperienza più importante. In Mozambico ci sono andata nel 80 e sono stata 2 anni di seguito, poi 3, poi ci andavo tutte l'estate fino a qualche anno fa. Però Mozambico è quello il posto dove io ho fatto veramente ricerca, ma non da sola. Eravamo, per dire a voi, delle equip di ricerca cappeggiati da questo signore qui, dal professor Aquino di Braganza, che era un mozambicano di origine di Goa, un grandissimo intellettuale che era stato un giornalista famoso in Europa. Conosceva la politica africana, conosceva tutti quanti, era stato uno di quelli che aveva elaborato la questione dell'indipendenza in Mozambico, eccetera. Aquino di Braganza è una donna meravigliosa che è stata Ruth First, che è stata ammazzata nel 1982 nel suo ufficio, io ero con altri nell'ufficio vicino, da una lettera bomba mandata dai sudafricani, perché lei era una combattente con la scrittura. Lì la ricerca è stata bellissima perché noi eravamo un gruppo internazionale di docenti che insegnavano anche degli adulti, la maggior parte dei quali erano quasi analfabeti, ma dovevano assumere degli incarichi governativi. Il Mozambico non era andato a scuola quasi nessuno, e noi dovevamo quindi insegnare insieme. Allora si faceva così: io, che ero lo storico, la mia amica Brigitte, che era l'antropologa bravissima, eccetera, Mark, che è un belga, che era economista, sociologi, uno tedesco, uno sudafricano, eravamo i docenti, e la Rus, che era una era stata una giornalista, è stata la prima donna bianca messa in prigione, poi dopo è stata liberata, ma è stata 200 giorni in carcere. Beh, suo marito era il capo del Partito Comunista Sudafricano, quindi. Però lei era molto più brillante. Ruth, una donna, noi la chiamavamo la dama di ferro, perché bussava la mattina presto i nostri uffici e diceva: siete venuti in ritardo. Aveva un solo problema, che lei da anglosassone non riusciva a imparare il portoghese bene, non si capiva. Noi parlavamo, dovevamo fare lezioni in portoghese e anche fare le dispense in portoghese, ma facevamo dei testi che sono ancora in uso. Noi eravamo veramente comunisti, nel senso che non c'era il nome di nessuno di noi, era un lavoro collettivo, eh? C'erano vari gruppi di ricerca, i miei erano sempre nelle aree rurali e a nord, zona dove poi c'era stata la guerra di liberazione, e partivamo e andavamo a vivere dove? In case degli amministratori, dove c'erano messe male perché c'era stata la guerra, sporche, con le cimici, eccetera. Allora io sgombravo tutto quanto, allora non c'era niente per lavare, e dico io: non abbiamo i detersivi. Io guardo fuori dalla finestra e vedo un monte di cenere. Abbiamo il detersivo, adesso vi insegno. Loro erano così contenti dopo una cosa. E stavamo lì almeno 2 mesi. Poi al ritorno dovevamo scrivere tutto, metterlo a posto, tradurlo in portoghese comprensibile, e scrivevamo dei rapporti per le istituzioni di governo. Non è un caso che le persone prima nominate da Anna Maria Gentili, che erano professori all'Università di Bologna, Gianni Sofri, Enrica Collotti Pischer e la stessa Anna Maria Gentili, sono stati presidenti del Centro Cabral. Queste persone hanno diretto il Cabral anche guidate dal loro lavoro sul campo. Le iniziative del Cabral si inserivano però dentro un contesto cittadino già sensibile. Ce ne parla Cristina Ercolessi, professoressa all'Orientale di Napoli. Bologna è stata, ma anche Reggio Emilia, cioè molte delle case in Emilia, sono molti casi insomma, di questo tipo, che facevano la loro politica, avevano contatti, avevano cose, facevano, lanciavano iniziative. Cabral, cioè la biblioteca Cabral nata in quel modo, è un'espressione di questa cosa. Faccio un esempio che non riguarda la solita, diciamo, solidarietà con l'Africa australe, no? Con l'ex colonia portoghese, che è stata forse la cosa più importante di quegli anni, che è quella dell'Eritrea. Qua è anche interessante la lotta di liberazione dell'Eritrea, che era stata assolutamente appoggiata dal Partito Comunista per molto tempo, fino al 74, quando c'è il colpo di Stato militare progressista, poi definitosi marxista-leninista in Etiopia. Quando a quel punto, appunto, dopo questo passaggio dell'Etiopia dall'area, diciamo, sudamericana all'area, diciamo, all'autodefinizione marxista-leninista e al campo sovietico, PC centrale passa, abbandona in qualche modo l'Eritrea al suo destino e passa ad appoggiare l'Etiopia di Mengistu, no? dei militari marxisti-leninisti. Contemporaneamente nella città di Bologna si continua a tenere ogni anno il festival del fronte di liberazione popolare dell'Eritrea, no? Si continua a tenere a Bologna, quindi Bologna continua, la città per definizione, no, comunista italiana, si continua a tenere il festival degli eritrei, anche se a livello centrale questa cosa non è stata abbandonata. E il sindaco di Bologna di allora, qua poi siamo già inizio anni 90, è l'unico sindaco italiano che va alla festa dell'indipendenza di Asmara. Questa cosa, insomma, fino agli anni 90 è continuata. Ma qui siamo ormai lontani dagli anni 70, tempo in cui abbiamo cominciato la nostra storia. Il Cabral, nella sua storia istituzionale, cambia forma e obiettivi, diventando un centro meno legato ai politici cittadini, ma più autonomo, anche nella sua composizione, del comitato scientifico. Le note dell'allora assessore Federico Castellucci sui problemi dell'ufficio esteri, conservato all'archivio comunale di Bologna, pone proprio questi obiettivi per il centro. Nell'anno 1979-80 il rinnovo del comitato e la partecipazione attiva della maggioranza dei suoi membri ha consentito di avere una regolare e valida attività. Proprio gli ultimi risultati ci inducono a ritenere che per il futuro sarebbe opportuno che il centro facesse un salto di qualità, portando la sua attività da un livello prettamente cittadino ad un livello regionale e nazionale. La trasformazione del Cabral in un centro dedicato prevalentemente agli studi, ai seminari, all'organizzazione di conferenze e come centro specializzato di informazione e documentazione avrebbe un indiscusso valore proprio oggi che pare si viva un momento nel quale la partecipazione politica di carattere militante alle iniziative internazionali sembra affievolirsi. All'inizio degli anni 70, Cabral è una delle personalità della politica internazionale, uno dei leader più noti dei movimenti di liberazione dell'Africa, e la sua lotta gode di un ampio consenso, mentre il regime fascista portoghese è sempre più isolato. L'attenzione e l'ascolto di cui godono i rivoluzionari africani è testimoniata dall'organizzazione a Roma, nel giugno del 1970, della Conferenza Internazionale di Solidarietà con i Popoli delle Colonie Portoghesi, una conferenza pubblica a cui partecipano organizzazioni politiche, religiose e sindacati da tutta Europa. Da lontano le autorità portoghesi mugugnano, ma non hanno la possibilità di intervenire. Ciò che non possono tollerare però è la coda della visita in Italia dei leader dei movimenti di liberazione di Guinea, Angola e Mozambico. Il 1 luglio 1970, infatti, Cabral, Marcelino dos Santos e Agostinho Neto vengono ricevuti in udienza privata dal pontefice Papa Paolo VI. Per la prima volta nella storia, un papa incontra dei capi di movimenti guerriglieri. È uno degli eventi più importanti della storia dei paesi del Terzo Mondo del secondo Novecento e riflette la convergenza di posizioni e interessi diversi nella solidarietà anticoloniale. È anche un duro colpo per un regime che ha basato parte della sua ragion d'essere su una strenua difesa del tradizionalismo cattolico. Certo, il Papa aveva precisato che durante l'udienza non sarebbero state affrontate questioni politiche, ma il segnale che arriva è chiaro. Il Portogallo non gode più di alcun credito, neanche a livello internazionale. Ormai non sono più solamente i paesi socialisti dell'Est o quelli del movimento dei paesi non allineati a riconoscere i movimenti di liberazione come attori politici imprescindibili, ma è anche l'Occidente, i cui valori i salazaristi rivendicano di difendere, e a questo punto anche la Chiesa. In questa estate romana del 1970 viene rotto quello che Cabral definisce come il muro di silenzio elevato intorno ai nostri popoli dal colonialismo portoghese, potendo così dire con orgoglio: ecco il primo giorno della nostra creazione come nazione. Incidente diplomatico con il Portogallo, vittoria politica e morale dei movimenti di liberazione delle colonie portoghesi. Sicuramente la scelta di Papa Paolo VI ha rappresentato un momento storico della lotta contro il colonialismo, ma anche una vittoria per la Chiesa che così ha aumentato il proprio prestigio in Africa. Sempre più orgogliosamente solo sulla scena internazionale, il Portogallo assiste al progressivo ritiro del sostegno anche da parte dell'amministrazione Nixon degli Stati Uniti, che nel frattempo è in grande difficoltà sul fronte del Vietnam. The job of progressives and revolutionaries everywhere is to hasten the death of imperialism. 50 anni oltre i confini è una serie podcast realizzata da Radio Vallun per Biblioteca Amilcar Cabral, settore biblioteche